giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica da Andrea Covri e Dario Ronzoni in studio per questa edizione del giornale radio regionale. Il ritrovamento questa mattina del cadavere di un uomo appeso a una balaustra della superstrada a Trieste in apertura. Sul posto c'è per noi Andrea Saule, allora andiamo in diretta da lui per sapere cos'è successo. A te Andrea. Buongiorno, sì, in realtà si sa poco di quello che è successo, sappiamo che è stato trovato attorno alle 8:30 da delle persone che stavano facendo della manutenzione alla strada, un cadavere di un uomo di circa tra i 50 e i 60 anni appeso proprio alle balaustre sulla grande viabilità dopo la galleria di Servola che collega la città a Valmaura. L'uomo ha diversi traumi sul corpo, è legato in diverse posizioni, sul posto ci sono i carabinieri, si presume che sia legato con una corda probabilmente al collo, come dicevamo, i piedi sono legati con un nastro, numerosi i traumi in testa, delle bruciature, fare, non si riesce a capire la nazionalità dell'uomo, che però potrebbe essere straniero, si dice tra i 50 e i 60 anni perché ha una folta barba bianca, trovati anche dei tagli. In questo momento il cadavere non è ancora stato rimosso, sul posto c'è il pubblico ministero, Maddalena Chergia e il vigile del fuoco che con l'autoscala stanno facendo insieme al medico legale le fotografie appunto per aiutare, per cominciare le indagini. L'uomo è vestito con una maglietta nera e con una camicia e dei pantaloni di color khaki. L'impressione è che chi ha appeso il corpo presumibilmente nella notte, quando potrebbe essere avvenuto l'omicidio, lo ha fatto soltanto per far vedere questo assassino, per far ritrovare il corpo. Ecco, questo è quello che possiamo dire al momento. Ovviamente non abbiamo indagini, non abbiamo elementi in più per poter supportare questa tesi. Grazie ad Andrea Saule, ulteriori approfondimenti e aggiornamenti nelle prossime edizioni nel nostro telegiornale delle 14 su Rai 3. Ora cambiamo argomento, parliamo delle famiglie in difficoltà economiche spiazzate dalla riduzione del superbonus edilizio. Per loro dal 2 ottobre ci sarà la possibilità di attingere a un fondo varato dal governo. Pubblicate le modalità di accesso. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per poter usufruire del cosiddetto Fondo Indigenti, un contributo a fondo perduto istituito col passaggio del superbonus dal 110% al 90%. Pensato dal governo per i cittadini con reddito non superiore a 15.000 euro, che con la riduzione dello sconto non sarebbero più in grado di sostenere la spesa rimasta a loro carico. Si potrà fare domanda online dal 2 ottobre. Si potranno ottenere al massimo 9.600 euro, ma il contributo si ridurrà proporzionalmente in base al numero di richieste pervenute. Questo perché a livello nazionale non sono stati stanziati più di 20 milioni di euro. Emanuela Gorgone, presidente dell'ANACI, Associazione Nazionale Amministratori di Condominio di Udine. Basta considerare che solo il Friuli Venezia Giulia ha stanziato per il fotovoltaico 100 milioni di euro, 20 milioni di euro per tutta Italia, finirà in mezz'ora probabilmente. L'ordine cronologico di presentazione delle istanze sarà uno dei criteri valutati. ANACI teme che molti degli anziani delle fasce meno abbienti siano penalizzati dalla modalità di presentazione della domanda e che a beneficiarne saranno soprattutto coloro che avranno la possibilità economica di rivolgersi a un consulente. C'è poi anche una situazione di equità sociale. Se in uno stesso condominio ci sono 5 persone che hanno diritto a ricevere questo contributo, però solo una in base a click day riesce ad ottenerlo, dove sta la giustizia? Le altre 4 cosa devono fare per poter comunque pagare quello che è dovuto? Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica, dopo il congresso che ha eletto il senatore Marco Dreosto come segretario regionale, il direttivo della Lega Friuli Venezia Giulia ha rinnovato gli incarichi interni. Vice segretario vicario e il deputato Graziano Pizzimenti, la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e la responsabile per gli enti locali. E il sindaco di San Giorgio della Rinchinvelda, Michele Leon, è responsabile organizzativo, mentre Davide Scaglia è amministratore finanziario. Un registro di condoglianze è stato aperto in prefettura a Trieste a seguito della morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Il registro resterà attivo fino al giorno dei funerali fissati per martedì prossimo. La scienza, terza e ultima giornata di Trieste Next, con al centro l'evoluzione delle cure dell'AIDS, una malattia con cui oggi si può convivere. Tra gli ospiti c'è Alessandro Aiuti, uno dei primi medici che si è occupato di AIDS in Italia. Sentiamo. Per molto tempo l'HIV è stato considerato un nemico invincibile. Oggi non solo esiste una cura che permette alle persone sieropositive di vivere una vita normale, ma i ricercatori sono anche riusciti a sfruttare le caratteristiche di questo virus per trasformarlo in un farmaco di precisione. Da malattia a cura, grazie al contributo di due medici, Fernando Aiuti, uno dei primi ad occuparsi in Italia di AIDS, e del figlio Alessandro, presente a Trieste Next in videocollegamento, che ne ha raccolto il testimone e che su questa straordinaria ricerca ha scritto un libro assieme alla divulgatrice scientifica di Telethon, Anna Maria Zaccheddu. Questo virus che, come sappiamo, non se ne va dal nostro organismo, infatti ancora oggi non abbiamo un vaccino ma soltanto dei farmaci che lo possono tenere sotto controllo, è stato trasformato in un trasportatore di materiale genetico a scopo terapeutico e oggi ci sono dei farmaci che sono fatti in questo modo per alcune malattie genetiche e per alcuni tumori, e questo è grazie alla ricerca italiana, alla ricerca supportata da Telethon, e infatti i proventi di questo libro saranno donati da noi autori, Alessandro Aiuti, vice direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano, alla Fondazione Telethon e all'AIDS, che è la prima associazione italiana che si è dedicata all'AIDS. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il meteo, la nuvolosità è variabile su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 18,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Pordenone 21 gradi, a Udine 19, a Gorizia 17, a Tolmezzo 16 gradi, Forni di Sopra 15, Piancavallo e Tarvisio 13, Sappada 12,5 gradi, Monte Zoncola 9, Monte Lussari 5. Tornando sulla costa, a Lignano 22 gradi, a Grado 20, temperatura del mare in queste località di 24 gradi. Uno sguardo anche alle previsioni per oggi pomeriggio, con cielo in genere poco nuvoloso, con l'atmosfera più secca dei giorni precedenti, per venti moderati da nord o nord-est. Sulla costa e sulla fascia orientale sarà possibile temporanea maggiore nuvolosità, specie verso Trieste. Nonostante il tempo incerto, ottimo successo per le giornate europee del patrimonio ad Aquileia con gli Open Day, alla presenza degli archeologi delle 5 università impegnati negli scavi. Oggi continuano le dimostrazioni di lavorazione del vetro con tecniche antiche da parte di maestri vetrai muranesi nell'area archeologica del Fondo Pasqualis accanto alla Basilica di Aquileia. E alle 15 appuntamento con la visita guidata alla Domus di Tito Macro. Lo sport calcio in Serie A, l'Udinese alle 15 affronta la Fiorentina allo Stadio Friuli. Il tecnico dei bianconeri Andrea Sottile nella conferenza stampa di Vigilia ha parlato della possibilità di vedere Pajero a centrocampo tra i titolari. Tra i viola sarà assente Nico Gonzalez. L'esterno offensivo argentino non ha recuperato dal duro colpo all'addome nel corso della gara di conference giocata giovedì scorso in casa del Genk. La Fiorentina ha 7 punti in classifica, 4 in più dei bianconeri, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. In Serie C, impegno esterno per la Triestina che affronta alle 14 allo stadio Speroni di Busto Arsizio la Pro Patria. Tra i titolari non ci sarà Malomo, uscito acciaccato dalla gara di Crema. Contro i Bustocchi la squadra di Tesser cerca il riscatto dopo la sconfitta con la Pergolettese. Pro Patria con 4 punti in classifica dietro alla Triestina che ne ha 6 dopo 4 giornate. In Serie D, gruppo C, ieri prima sconfitta in campionato per il Chions, battuto fuori casa dal Porto Gruaro per 1-0. Resta fermo a quota 4 punti in classifica. Nello stesso girone è in campo oggi il Chiarlins Muzzane, fermo a 1 punto, che cerca in casa la prima vittoria stagionale contro i bresciani del Breno alle 15. Gli appuntamenti, concerto dei Pooh a Villa Manin, la storica band italiana si esibirà stasera, inizio alle 21, le biglietterie saranno aperte dalle 18.15. Il concerto al lago di Remo Anzovino si tiene oggi al Parco della Burida alle 14.30. Il coro del Friuli Venezia Giulia con l'orchestra barocca di Pordenone a tu per tu con Bach alle 17.30 alla chiesa di San Giacomo di Polcenigo. E al Teatro Miele di Trieste lo spettacolo performance Note, Neuroni, Emozioni, Mezzo Cielo 3.0 con l'esibizione di Matteo Bevilacqua al pianoforte alle 18.30. Alle 12.25 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Giuliano Pecorari e Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto il nostro notiziario, il ritrovamento di un cadavere appeso sulla grande viabilità triestina, ulteriori aggiornamenti nel nostro telegiornale delle 14. Ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.